Il caso Regeni, dopo la riapertura diplomatica di Teheran al Cairo, le proteste della famiglia e un articolo del New York Times che mette in luce nuovi aspetti. E poi in Nigeria Boko Haram torna a colpire con violenza Maiduguri. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. I genitori di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto, definiscono una resa la decisione del governo di far tornare l'ambasciatore italiano al Cairo. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. Buona giornata, ben ritrovati gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano, il programma che volge lo sguardo di fuori dei confini per capire cosa sta accadendo. Vi porgo i saluti anche da parte di Antonio Talia, Elisa Pancaldi che sono in redazione, Gianmarco Ferronato che è in regia. Vi ricordo che potete commentare i temi che discuteremo quest'oggi o porre domande al 349-238-6666. Vanno bene sia gli sms che i whatsapp. Poi siamo su Twitter, Giampaz oppure Nessun Luogo 24. E poi siamo anche su Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24. Come avete sentito, ripartiamo dal caso Regeni. L'ambasciatore italiano torna al Cairo. Siamo indignati. La decisione di rimandare ora l'ambasciatore in Egitto ha il sapore di una resa incondizionata. E la dura reazione dei genitori di Giulio Regeni dopo la notizia rivelata dal ministro degli esteri Alfano. Quello che avete sentito è lo stato dell'arte che vi abbiamo raccontato anche nella puntata di ieri di Nessun Luogo Lontano. Però oggi il New York Times, in un lungo articolo che ricostruisce l'intera vicenda, rivela che l'amministrazione Obama statunitense avrebbe trasmesso al governo italiano, l'allora premier era Renzi, importanti documenti che puntavano il dito e avrebbero dimostrato responsabilità di apparati egiziani nell'omicidio di Regeni. Palazzo Chigi, lo avete sentito anche dal GR, tramite le agenzie ha smentito. Rimangono un po' di punti di domanda. Ieri vi raccontavamo che dal Cairo sono arrivate nuove carte per gli investigatori italiani e il governo ha mandato un nuovo ambasciatore dopo 16 mesi di vuoto. Per capire meglio anche la grammatica diplomatica ci soccorre il primo ospite di quest'oggi, che è l'ambasciatore Domenico Vecchioni, a cui do il mio buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano. Grazie, buon pomeriggio a voi. Allora, ambasciatore Vecchioni, lei ha lavorato in diverse rappresentanze in giro per il mondo, anche alla NATO, adesso è più scrittore e saggista, ricordo fra l'altro il suo ultimo libro è 20 destini straordinari del XX secolo, edito da Greco e Greco. Però in questa trasmissione la vorremmo sentire in quanto profondo conoscitore delle dinamiche diplomatiche. Partiamo da un fatto: quanto è usuale un vuoto di 16 mesi di una rappresentanza diplomatica? Ma il richiamo dell'ambasciatore per consultazioni, come appunto è avvenuto nel caso Regeni, è una forma tradizionale di protesta diplomatica ed è una forma di protesta tutto sommato piuttosto blanda e temporanea. È blanda perché l'ambasciata continua la sua attività normale, sia pure con qualche forse difficoltà maggiore, ma insomma la struttura rimane attiva, ed è temporanea perché passato un certo periodo di tempo o la controversia si è risolta, il caso si è chiarito e allora l'ambasciatore ritorna, oppure le relazioni tra i due paesi si sono ulteriormente deteriorate e allora c'è quello che si chiama in gergo diplomatico il ritiro vero e proprio dell'ambasciatore, che presuppone poi il congelamento delle relazioni, se non addirittura la rottura delle relazioni diplomatiche. Quindi diciamo che nel caso Regeni questo richiamo dell'ambasciatore per consultazione è durato un tempo molto molto lungo rispetto alla prassi diplomatica. Quanto sarebbe stato sostenibile continuare, sempre secondo diciamo la tradizione diplomatica, dei rapporti, delle relazioni? Non c'è un termine preciso, però come dicevo immagino che la Farnesina si sia trovata di fronte anche ad un bivio, che tenendo conto anche del fatto che ci sono anche, come dire, degli interessi nazionali cui pensare. C'è la comunità italiana residente al Cairo, che certo con una ambasciata che non funziona a pieno ritmo si sente meno salvaguardata, quindi immagino che abbiano fatto questo ragionamento. Da una parte queste nuove carte che sono arrivate dalla Procura del Cairo per la Procura di Roma, insomma, dimostrerebbero che sono stati fatti passi avanti, che comunque ci sarebbe una volontà del governo egiziano di collaborare, e quindi dall'altra hanno pensato che mandando un ambasciatore, rimandando l'ambasciatore, Roma avrebbe uno strumento in più, un mezzo in più per continuare la pressione in loco, tant'è vero che nella lettera di missione, diciamo, che il ministro Alfano ha consegnato all'ambasciatore, sì, e c'è anche il fatto che un esperto giuridico sarà al Cairo proprio per affiancare l'ambasciatore in questa pressione verso gli egiziani per scoprire finalmente la verità. Ecco, ambasciatore Vecchioni, c'è molti osservatori e commentatori hanno detto è una resa, primo fra tutti osservatori privilegiati, la famiglia di Giulio Regeni, Amnesty International per esempio, altri dicono come governo saremo più efficaci, in parte ce l'ha spiegato. Non so se ha letto ieri, c'era un lungo articolo di Stefano Stefanini, un suo collega, sulla Stampa, era intitolato Realpolitik in versione mediterranea e faceva riferimento a tutti gli interessi che l'Italia ha, non soltanto in Egitto ma anche in chiave libica. Dobbiamo ricordare che l'Egitto appoggia il governo di Haftar in Cirenaica, l'altro governo libico. Non è che in verità abbiamo perso l'unica vera leva politica di pressione che aveva l'Italia? Guardi, naturalmente noi parliamo sulla base di notizie di giornali, io non so esattamente quello che sta succedendo, però ripeto, il calcolo che è stato fatto, giusto o sbagliato che sia, è proprio, quando parlavo di interessi nazionali, è proprio di tener conto di tutto il contesto mediterraneo, e quindi hanno creduto la Farnesina che privarsi dell'ambasciatore in questo momento sarebbe stato, ci avrebbe indebolito e non rafforzato. Sicuramente la motivazione principale è che con un full ambassador, come si dice in termine tecnico, sì, la cooperazione giudiziaria per due paesi potrà rafforzarsi, almeno questa è la sfida, immagino, del ministro Alfano. L'ultima domanda, ambasciatore Vecchioni, abbia pazienza se un po' la tiro per la giacchetta in questo senso. D'accordo. Se lei fosse la Farnesina, che strumenti di pressione utilizzerebbe? Oltre ci sono altre forme di proteste in alternativa al richiamo, al ritiro dell'ambasciatore, altrettanto importanti, come non so, la denuncia di un accordo bilaterale, la rinuncia al finanziamento di progetti che magari erano stati promessi al paese accreditante, non so, atteggiamenti negativi nei confronti di quel paese in contesti internazionali, l'invito ai turisti a non recarsi in un determinato paese. Ci sono, diciamo che sono forme di protesta che possono durare un tempo, poi dopo, ecco, un anno e mezzo è chiaro che o bisogna prendere la decisione drastica di rompere le relazioni diplomatiche, ma a quel punto sulla bilancia vanno considerati anche, appunto, quello che chiamavo gli interessi nazionali e la situazione degli italiani in Egitto, della nostra comunità. Grazie mille all'ambasciatore Domenico Vecchioni, lo ricordo, oltre che ambasciatore è anche scrittore, l'ultimo suo testo, 20 destini straordinari del XX secolo, edito da Greco in Greco. Buona giornata, grazie, ambasciatore Vecchioni, grazie, e buon lavoro. Grazie mille, arrivederci. Allora, questo è Nessun Luogo Lontano, una lunga prima pagina, tutta dedicata ancora al caso Regeni, dopo le rivelazioni del New York Times. Abbiamo intanto cercato di comprendere come funzionano anche le dinamiche diplomatiche, quanto è importante per esempio un vuoto, quel vuoto lasciato da Massari per 16 mesi, quanto è importante secondo i diplomatici poi andarlo a riempire? Ripeto, da una parte c'è il governo che dice questa strategia può essere efficace, dall'altra parte c'è la famiglia e altre associazioni che dicono assolutamente no, si tratta di una resa. Allora, siccome già l'ambasciatore Vecchioni citava gli interessi nazionali, abbiamo provato a raccontare e raccogliere in pochi minuti quelle che sono in gioco, gli interessi tra Egitto e Italia. Sentiamo. L'Italia è il terzo partner commerciale dell'Egitto ed è il primo tra i paesi europei. Infatti, più di 130 aziende italiane hanno deciso di investire proprio in questa area. Eni è presente in Egitto da più di 50 anni e attualmente opera su giacimenti sviluppati e in via di sviluppo che coprono un'area di 28.000 km quadrati. Molte attività produttive si concentrano a Noros, sul delta del Nilo, da cui si estrae gas. Si stima che nel 2017 possa raggiungere la capacità massima con 160.000 barili equivalenti di petrolio al giorno. Sempre di recente è stato scoperto un altro giacimento di gas Azor e si presume che abbia una riserva pari a 850 miliardi di metri cubi di gas. Per il giacimento di Azor, Eni ha firmato due accordi di cessione con due diversi partner, destinando una quota del 10% a BP, per un ammontare pari a 375 milioni di dollari, una quota del 30% a Rosneft, per un ammontare pari a 1 miliardo e 125 milioni di dollari, e il rimborso pro quota degli investimenti sostenuti pari a circa 450 milioni. Nel dicembre 2016, inoltre, sono stati firmati due nuovi accordi di concessione per altri due blocchi di giacimenti nel Mar Mediterraneo. Eni, però, non è l'unica società italiana a investire in Egitto. Banca Intesa San Paolo, nel 2006, comprò l'80% di Bank of Alexandria per 1,6 miliardi di dollari. Edison ha annunciato a gennaio di voler continuare a investire in Egitto e ha firmato un accordo da 86 milioni di dollari con la compagnia pubblica Egypt Natural Gas Holding per la ricerca di gas naturale e petrolio nel Mediterraneo. E poi Pirelli, Italcementi e ovviamente società del settore turistico come Alpitour e Valtour, settore nuovamente in crescita rispetto agli anni precedenti. Inoltre, il governo egiziano ha affermato di puntare a un investimento di 30 miliardi di dollari nella zona economica del canale di Suez nei prossimi 5 anni. E questo potrebbe rappresentare un nuovo mercato per molte compagnie italiane. Queste, in massima sintesi, sono gli interessi delle imprese italiane che, secondo alcuni, il rilacciamento dei rapporti diplomatici mirerebbe a salvaguardare. È anche vero che, come citavo prima, c'è anche un nodo di natura più strettamente geopolitica, cioè il fatto che l'Egitto di Al-Sisi appoggia il generale Haftar, che è il governo, quell'altro pezzo di Libia oltre a quello di Tripoli, quindi siamo in Cirenaica, quindi Bengasi, che era quello che, vi ricordate, qualche giorno fa aveva tuonato contro la missione militare italiana in Libia. È evidente, dicono alcuni analisti, che non possiamo avere una rappresentanza diplomatica a Tripoli e non averla al Cairo, questo per andare a stabilizzare, a normalizzare il Mediterraneo. L'Egitto è un paese importantissimo, ha dei legami molto profondi anche con l'Arabia Saudita, confina con Gaza, insomma, avete capito, l'Egitto è un paese estremamente importante. Chi lo conosce molto bene è la prossima ospite, che è Laura Capone, giornalista freelance arabista, conosce molto bene l'Egitto, collabora fra gli altri con Rai e Fatto Quotidiano. Laura, buongiorno, benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Buon pomeriggio. Allora, Laura, partiamo da questo lungo articolo del New York Times. Fra l'altro, noi abbiamo provato a raggiungere l'autore proprio pochi minuti fa, ma per il momento non parla, preferisce che sia l'articolo a parlare. Nei prossimi giorni forse riusciremo a farci dare qualche delucidazione in più. Che cosa dice il pezzo del New York Times che ancora non sapevamo? Le cose nuove fondamentalmente sono tre e paradossalmente riguardano più la politica interna italiana, che le cose che invece più o meno si erano ricostruite in questo anno e mezzo per quanto riguarda le responsabilità del governo egiziano e dei suoi apparati di sicurezza. Prima di tutto la questione relativa alle informazioni che l'amministrazione Obama avrebbe fornito al governo Renzi qualche settimana dopo il ritrovamento del corpo di Giulio. Ricordiamo, il corpo era stato ritrovato il 3 febbraio del 2016. Cosa significa? Questa informazione è molto importante perché all'inizio delle indagini e le prime affermazioni date dalle autorità egiziane tendevano a depistare qualsiasi tipo di pista che portasse a una responsabilità del governo egiziano, anche prima del ritrovamento del corpo. Ricordiamo che il ministro degli interni del Gaffar aveva, dopo 6 giorni, ricevuto l'ambasciatore Massari mentre Giulio era ancora non era ancora stato ritrovato e probabilmente era ancora vivo, e aveva assolutamente scartato qualsiasi possibilità che le forze di sicurezza egiziane, il governo egiziano, avessero a che fare con l'argomento. Poi ricordiamo Khaled Shalabi, il capo della procura del governatorato e della polizia di Giza, che aveva parlato di un incidente stradale e poi ancora un regolamento di conti tra italiani. Questo è un punto importante perché significa che se il governo italiano ha ricevuto, anche se senza diciamo le fonti citate, come spiega il New York Times, un'informazione di questo tipo, significa che comunque non l'ha usata subito per fare una leva, per accelerare quello che poi i servizi di sicurezza hanno ammesso quasi un anno dopo, cioè che sorvegliavano Giulio, che c'erano state, che avevano ricevuto delle segnalazioni che erano state assecondate dal capo del sindacato dei venditori ambulanti, che ancora a noi risulta, visto il video di cui siamo arrivati in possesso lo scorso gennaio, che abbiamo visto in televisione, di cui è in possesso anche la procura, che probabilmente la polizia ha anche aiutato Abdalla a registrare questo video dove Giulio parlava di un finanziamento di una fondazione per dei training per i sindacati. Sì. La seconda cosa è il ruolo dell'ENI, che è molto importante, in quanto il New York Times sostiene che abbia quasi spaccato il governo sulla linea da seguire, e questo credo che di questo le dovranno rendere conto alla famiglia, perché ricordiamolo, l'ENI si è impegnato diverse volte con la famiglia dopo che la madre Paola De Fendi, anche ultimamente in diverse occasioni pubbliche dove l'ENI era sponsor, aveva chiesto un impegno, e diciamo che se questa cosa venisse verificata, di certo non è assolutamente vero che, insomma, che diciamo, l'impegno dell'azienda e anche l'impegno del governo garantito alla famiglia evidentemente non sarebbe stato rispettato. Sì. Un'altra cosa importante è l'intervista che si è rilasciato alla Repubblica. Questa è un'altra cosa molto molto importante. Se quello che diciamo il New York Times ha detto e Repubblica al momento non ha commentato, significa che sarebbero stati complici di un tentativo anche molto molto diciamo non tardivo, perché parliamo di un mese e mezzo, anche meno, 6 settimane dopo il ritrovamento del corpo, di normalizzare subito i rapporti. L'ambasciatore in quel momento non era stato neanche ancora ritirato, perché quell'intervista arriva, ricordiamo, per 2 giorni in prima pagina con Sisi che dice è come un mio figlio, che appunto dice di essere vicino alla famiglia eccetera. Dopo pochissimo tempo è entrato in atto il depistaggio dei servizi egiziani, che ha fatto ritrovare 5 persone dentro un camioncino apparentemente crivellate di corpo. In realtà queste persone erano già morte, avevano anche dei segni delle manette ai polsi, e a casa di queste persone, che erano state indicate come una presunta gang che rapiva stranieri, sono stati fatti ritrovare i documenti di Giulio. Queste sono le 3 cose molto molto importanti importanti e che paradossalmente riguardano più l'Italia sì. che l'Egitto. Allora, Laura Capon, lo dicevo, arabista, giornalista freelance, ha curato fra l'altro uno speciale del TG1 con Amedeo Ricucci proprio sulla ricostruzione del caso Regeni, ma ricordo anche un'altra ottima ricostruzione realizzata da Riccardo Iacona. Insomma, i tentativi da parte di colleghi di cercare di capire cosa è avvenuto ci sono stati. Vedremo se questa inchiesta del New York Times avrà seguito, se si verificheranno appunto le cose che vengono scritte. Facciamo un passo indietro però, Laura, visto che tu ti sei occupata appunto molto da vicino di questo caso. Adesso si parla di questi documenti inviati ai magistrati italiani che sarebbero stati la molla per far riaprire l'ambasciata al Cairo. Che idea ti sei fatta di questi documenti che secondo il governo potrebbero rilanciare in maniera significativa le indagini? Prima di tutto non è la prima volta che la procura italiana o il governo italiano parla di svolta nelle indagini, è già successo diverse volte, ci sono stati diversi meeting, ricordiamolo nel novembre del 2016 una delegazione Lampo della procura di Roma è arrivata al Cairo per ritirare quei documenti, quindi passaporto, carte di credito, bancomat che erano stati fatti ritrovare nella casa della presunta gang di rapitori stranieri, oppure nel dicembre del 2016, il mese dopo, dove dissero abbiamo tutto quello che abbiamo chiesto. In realtà ci sono diversi punti critici e nessuno dei giornalisti, neanche quelli più vicini alla Procura di Roma, sia in grado di ricostruire esattamente quali sono i documenti che la Procura di Roma ha in questo momento. Sono frammentati, sono un puzzle, i tabulati telefonici che avevano chiesto sono arrivati ma parzialmente, la Procura aveva chiesto all'inizio 13 i tabulati telefonici relativi a 13 persone, oppure la questione degli interrogatori. Nello scorso aprile la Procura aveva chiesto di assistere agli interrogatori in Egitto, questo non è stato permesso, così come non era stato permesso quando la missione dei ROS e dello SCO era arrivata subito dopo il ritrovamento del corpo. Questo sì. Lo racconta di nuovo anche il New York Times, loro facevano semplicemente degli interrogatori nello scantinato dell'ambasciata, avevano quindi semplicemente interrogato gli italiani vicino a Giulio e qualche egiziano che aveva tentato di mettersi in contatto. Io ricordo l'anno scorso uno degli amici di Giulio che mi aveva detto io avevo tentato di farmi interrogare dagli italiani perché ovviamente ci tenevo a lasciare la mia dichiarazione, quindi libertà sì. di movimento è pochissima, quello che arriva sono dei resoconti. Dovete capire che anche il livello di informatizzazione e di catalogazione degli atti in Egitto è abbastanza approssimativo, quello che arriva sono praticamente dei resoconti di interrogatori scritti in arabo, probabilmente sono anche scritti a mano, io non li ho mai visti, ma avendo visto già atti di procure egiziane e denunce della polizia ho visto che spesso gli atti sono scritti a mano. Sì, quindi dici c'è il ragionevole rischio che si spenda tempo e tempo per dare una forma, anche per tradurre, per cercare di capire se sì. queste carte hanno un valore, se davvero rappresentano una svolta nelle indagini come è stato detto. Intanto 349-238-6666 per i commenti e i messaggi. Beh, c'è chi dice la nostra, come Raffaele da Pistoia, la nostra diplomazia a partire dal ministro e allora Gentiloni ha fatto una figura barbina, complimenti ad Alfano per aver rimandato l'ambasciatore al Cairo, mossa astuta, dice ironicamente. C'è chi invece, quasi rispondendo a questo ascoltatore, sostiene la realpolitik non è una parolaccia ma è una cosa buona e giusta, e quindi i rapporti internazionali, dice, non sono per anime belle, sono rapporti di forza e diplomazia. Ancora 3492386666, scusate, stavolta su WhatsApp c'è qualcuno che dice: non credete che stanno ignobilmente strumentalizzando il dolore di una famiglia, non credete che dovrebbe predominare l'interesse della nazione? Così al 349-238-6666 su Twitter invece un ascoltatore dice: vogliamo parlare del silenzio dell'università di Oxford, anzi vogliamo parlare dell'università di Oxford, in realtà Giulio Regeni faceva una ricerca per l'università di Cambridge se non erro, e se l'ascoltatore fa riferimento al silenzio dell'università, ne parlava per esempio proprio ieri Francesco Strazzari della Scuola Superiore di Pisa a Rai News 24 credo, e parlava di comportamenti e di codici a volte medievali da parte di alcuni istituti di ricerca, certo un silenzio colpevole in quel caso. Allora, l'informazione finanziaria, poi di nuovo nessun luogo sarà lontano. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questo è Nessun Luogo Lontano, una lunga pagina tutta dedicata al caso Regeni dopo la pubblicazione da parte New York Times di un articolo che va a svelare nuove pieghe di un caso assolutamente intricato e che ha dato adito, ai noi, anche tutta una serie di speculazioni che sono viaggiate sui social, alcune assolutamente ignominiose. Adesso ve ne do conto perché alcuni ascoltatori insistono su alcune cose e mi soccorrerà Laura Capone in questo. Mentre vi leggo un altro messaggio al 349-238-6666, un ascoltatore che dice: ma veramente pensate che l'Egitto, di Al-Sisi processi i vertici dei servizi segreti indirettamente coinvolti? Cosa può fare concretamente il governo? Ritorsione diplomatica e niente più. O credete che si può dichiarare guerra all'Egitto? Così sconsolato un ascoltatore su WhatsApp, un altro che dice: vedere in TV pubblicizzate le vacanze in Egitto dopo Giulio Regeni è stato per me tristissimo. È vero che l'industria del turismo è assolutamente in crisi, ma in crisi peraltro per un problema di sicurezza interno gravissimo, perché gli attacchi sul Mar Rosso sono stati tanti, sono stati letali, al di là della vicenda Regeni. Siamo con Laura Capone, arabista, giornalista, freelance, Rai e Fatto Quotidiano fra gli altri. Fra l'altro è appena uscito un tuo pezzo anche sul sito del Fatto Quotidiano, Laura. Mi aiuti a rispondere, perché questa vulgata continua molto spesso quando si parla del caso Regeni. C'è chi mi risponde al mio silenzio su Cambridge dicendo: cosa avrebbero dovuto dire visto che sono servizi inglesi che hanno mandato al macello Giulio? Un altro che dice: cosa faceva Regeni in Egitto? Per chiedere verità bisogna prima dirla. Io ricordo la risposta sempre di Strazzari ieri in televisione, che diceva che la ricerca di Giulio è stata condotta secondo tutti i protocolli che l'università impone. Poi la ricerca universitaria, signori, come il giornalismo, ha molto spesso dei punti di contatto. Devi andare nei posti, devi fare domande alle persone, cioè non è che puoi stare alla scrivania pensando di fare copia e incolla ad un'agenzia e fare una ricerca. Laura Capone. Sì, purtroppo questa vulgata non è nata da sola, è nata da diverse settimane subito dopo la morte di Giulio di battage mediatico da parte dei giornali italiani, che hanno iniziato a parlare e confondere le attività che Giulio svolgeva. Ricordiamo che Giulio nel 2013 era già stato al Cairo, ha fatto un internship in un'agenzia dell'ONU e poi era andato a lavorare a Oxford Analytica. Oxford Analytica è stato uno dei primi punti dove i giornali hanno equivocato l'attività di Giulio. Oxford Analytica è un think tank che ovviamente, come tutti i think tank, prende analisi da esperti di area e fornisce analisi a chiunque, dall'azienda che si vuole aprire una fabbrichetta, anche il piccolo imprenditore in un paese va a chiedere a un think tank come la situazione. E ovviamente l'equivoco è stato definire Oxford Analytica un fornitore di informazioni per i servizi segreti inglesi, e qui c'è il primo equivoco. Sulla questione poi dell'attività accademica di Giulio abbiamo diversi punti critici. Il primo è che si è equivocato il concetto di gather intelligence, per esempio, che significa raccogliere informazioni, non solo intelligence non significa solo servizi segreti, ed è l'attività sul campo, quella che ogni dottorando è obbligato a fare se vuole finire il suo dottorato, perché il dottorato è un'attività di ricerca che si fa con una consistente bibliografia, quindi facendo delle ricerche su testi già pubblicati, ma anche andando a fare delle ricerche sul campo per produrre dei materiali originali. Ti interrompo, Laura, perché sì, fra l'altro lui stava facendo una ricerca sui movimenti sindacali, no, in Egitto, e così rispondiamo anche a un altro ascoltatore su WhatsApp che chiedeva cosa concretamente faceva Giulio Regeni in Egitto. Quel dossier che lui stava seguendo, quella ricerca universitaria, quindi sui movimenti sindacali che hanno una storia anche importante in Egitto, poi lui era in contatto con venditori ambulanti, era una ricerca così rischiosa, era una ricerca così pericolosa che avrebbe toccato nervi così scoperti? La pericolosità della ricerca di Giulio non è data dall'argomento, nel senso che sì, i movimenti sindacali hanno avuto un ruolo anche nel portare alle proteste, alla rivoluzione di Piazza Tahrir nel 2011, ma in realtà la pericolosità di fare ricerca sul campo, a prescindere dall'argomento, per uno straniero si è capita solo quando Giulio è morto, perché, come dice anche il New York Times, il passaporto straniero rappresentava da sempre una tutela in più per non finire come gli egiziani. Quindi su questo, sul livello di pericolosità e anche sulla questione, appunto, che ho sentito che alcuni vostri ascoltatori ponevano, della Cambridge l'ha mandato allo sbaraglio oppure l'hanno mandato contro qualsiasi, non è vero, perché l'Egitto sino alla morte di Giulio non era un paese, era un paese critico, ma sicuramente nessuno, e vi giuro nessuno, io ci ho vissuto 4 anni e tutte le persone come me che hanno vissuto in quel paese, nessuno si sarebbe mai immaginato che uno straniero sarebbe stato ritrovato in un fossato, torturato esattamente come gli egiziani. Nessuno. Quindi questa cosa cade completamente qui, nel momento in cui noi non eravamo in grado di prevedere che l'asticella della paranoia contro gli stranieri, della ferocia e anche della secondo me, della sprovvedutezza degli apparati di sicurezza. Io continuo a pensare che il regime di Sisi sia molto debole e sì, quando un regime debole commette cose del genere avrebbe toccato così tanto gli stranieri. Ecco Laura, la debolezza del regime, mi spiegavi poco prima della diretta, secondo te è indicativa anche dal fatto di un particolare che è svelato, si sapeva, insomma, raccontato nuovamente nel New York Times, cioè il fatto che vi sarebbe stata una faida, una frizione fra le tre componenti, i tre settori delle forze di sicurezza egiziane. Noi siamo abituati a pensare ai servizi di sicurezza come un corpo monolitico, granitico, no? Invece dentro un regime militare c'erano tre fazioni che probabilmente hanno anche combattuto fra loro. Ci aiuti a capire meglio. Dentro un regime militare egiziano ci sono più di tre fazioni che combattono tra di loro. È sempre stato così, il Ministero degli Interni, che appunto è a capo della National Security, il Ministero della Difesa che è a capo dell'altra sua agenzia di sicurezza e l'agenzia di sicurezza che fa capo alla Presidenza. Noi non abbiamo in realtà elementi per dire questo, parliamo di una lettera anonima arrivata all'ambasciata di Berna e io continuo a pensare che queste ricostruzioni siano tutte verosimili, ma non abbiamo le prove per capire se siano vere. La cosa di cui siamo abbastanza sicuri è lo scollamento di tutte le parti che secondo, diciamo, dagli analisti vengono chiamati il deep state egiziano, che non riguardano solo i servizi segreti ma riguardano per esempio anche la magistratura e altre componenti, e questa cosa non era, diciamo, un segreto. Io ricordo qualche mese prima della sparizione di Giulio un ottimo articolo di Foreign Policy che citava delle fonti ben informate vicino alla Presidenza che parlava di un presidente, e mi riferisco ad Abdel Fattah el-Sisi, che è un ex generale, e tra l'altro ci sono frizioni anche all'interno del Consiglio Militare Supremo, perché quando Sisi, dopo aver destituito Mohamed Morsi nel 2013, ha deciso poi di candidarsi, già all'interno del Consiglio Militare si era creata una frattura, perché molti militari non volevano che ci fosse un ex generale così in prima linea. Quindi Foreign Policy, dicevo, raccontava di un uomo solo che non è in grado di tenere le redini di tutto l'apparato. È per quello che io anche prima continuavo a dire che secondo me quello che è successo è indicativo non so di una faida, ma sicuramente di un sistema che è allo sbando e che non era così forte e granitico come per esempio lo è stato nei primi 10-15 anni della dittatura di Mubarak. Alla fine della dittatura di Mubarak, prima della rivoluzione, c'era una situazione non simile, però di debolezza e di frizione tra tutte le parti. Grazie mille Laura Capon per questo tuo lungo e dettagliato resoconto. Laura Capon, arabista, giornalista, freelance, Rai, Fatto Quotidiano fra gli altri, grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Allora, in questa puntata di Nessun Luogo Lontano, per buona parte dedicata al caso Regeni, Antonio Natale ha appena raggiunto Hussein Baumi, è un attivista egiziano, ha dovuto lasciare l'Egitto, adesso vive e lavora da Tunisi per Amnesty International e si occupa d'Egitto. Sentite che cosa dice del suo paese sul fronte dei diritti umani. Well, at the moment Egypt is going through one of the worst human rights crises that Egypt has ever seen. Beh, al momento sul fronte dei diritti umani, dice il ricercatore, l'Egitto sta attraversando una delle peggiori crisi degli ultimi decenni. Da circa un anno e mezzo il governo sta stroncando qualsiasi attività di attivisti e organizzazioni per i diritti umani, spesso attraverso la criminalizzazione di ogni attività di queste organizzazioni. Queste attività risultano spesso in interrogatori e arresti arbitrari. Inoltre il governo ha approvato nuove leggi draconiane sulle ONG che colpiscono ogni organizzazione che si batte per i diritti umani. Le autorità egiziane continuano ad accusare e imprigionare attivisti, giornalisti, lavoratori, sindacalisti e perfino un ex candidato alle elezioni come Khaled Ali, accusato pretestuosamente di atti osceni in luogo pubblico. Ci sono molte persone che sono state fermate o arrestate solo per aver pubblicato contenuti critici sui social media, per aver criticato la presenza ossessiva dello Stato o anche solo per critiche a una legge. Inoltre, continua il ricercatore, le autorità egiziane hanno bloccato l'accesso a oltre 10.000 siti web e questa cifra è destinata a aumentare. Continuano le sparizioni, anzi aumentano, dice, le sparizioni forzate che ormai dal 2015 si contano a migliaia. La gente viene prelevata dal posto di lavoro, dalle scuole, dalle università e sparisce anche per periodi di 6-7 mesi. Al ritorno sono torturati e costretti a firmare confessioni che li condannano. Inoltre, continua il ricercatore, molte prove dimostrano che in Egitto si conducono esecuzioni sommarie, condanne a morte senza processo, condotte dalle forze di polizia. I corpi di queste persone vengono poi ritrovate colpite da proiettili. Le autorità sostengono che si tratti di scontri a fuoco, ma non c'è segnale che queste vittime fossero armate. Inoltre, assistiamo a processi ingiusti, senza il rispetto di alcuna regola del diritto, e assistiamo a esecuzioni di massa. Insomma, un completo blocco delle libertà di espressione. I giornalisti vengono imprigionati anche 4 anni solo perché hanno fatto il loro lavoro. Allora, questa era la voce di Hussein Baumi, attivista egiziano che lavora a Tunisi, lavora per Amnesty International. Adesso facciamo un'altra piccola pausa, poi l'ultimo ospite di quest'oggi, il professor Massimo Campanile. Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, l'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano sul caso Regeni e più generale sull'Egitto, su anche la situazione di questo paese, non solo economica ma anche sociale. Se è vero che la storia è maestra di vita, allora ci soccorrerà in quest'ultima analisi il professor Massimo Campanile, che fra l'altro è fresco di pubblicazione di un libro che vi consiglio, edito dal Mulino, Storia dell'Egitto, dalla conquista araba a oggi. Professor Campanile, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo è Lontano. Buon pomeriggio a voi ascoltatori, grazie. Allora, professor Campanile, cerchiamo di capire meglio questo paese che dal 2011 ha vissuto una storia molto turbolenta e anche violenta. Alcuni osservatori hanno detto che con l'arrivo di Al-Sisi è come se si fosse tornati a prima delle primavere arabe, no? Una restaurazione 2.0. Quello di Al-Sisi è un governo forte, super spregiudicato, ha la questione di sicurezza come priorità, però il rispetto dei diritti umani è un dossier che appare dimenticato. Lei userebbe questa parola, restaurazione? Ma guardi, indubbiamente il regime di Al-Sisi ha una presa sulla società che è ancora più forte, diretta e oppressiva di quella di Mubarak. Certamente il termine restaurazione può essere riutilizzato nella misura appunto in cui il regime di Al-Sisi ha cancellato in qualche modo le speranze che erano state suscitate dalla rivolta, dalla rivoluzione, come vogliamo chiamarla, e ha riportato il paese indietro all'epoca di Mubarak. Però ci sono anche delle notevoli differenze che riguardano proprio l'evoluzione interna del paese. Mubarak, quando era arrivato al potere nel 1981, dopo l'assassinio di Sadat, aveva per un certo periodo di tempo aperto i canali della comunicazione, anche giornalistica, anche della libera, in un certo senso, del libero confronto delle opinioni c'era stata una certa vivacità della società civile, poi c'è stato il periodo molto oscuro degli anni 90, cioè il periodo del terrorismo interno, in cui il regime si è ovviamente irrigidito perché ha dovuto lottare contro questo terrorismo interno e quindi ha dovuto in qualche modo reprimerlo, e da quel momento in poi, diciamo, c'è stato un processo involutivo del sistema mubarakiano, che poi in qualche modo si è dissolto con le rivolte del 2011. Questo processo involutivo deve essere identificato in una serie di punti. In primo luogo il fatto che il Partito Nazionale Democratico, cioè il partito del Presidente, è diventato un partito Stato, ed essendo diventato un partito Stato in qualche modo ha controllato tutti i gangli vitali del funzionamento del sistema politico, economico, sociale, culturale, eccetera, e quindi ha un po' soffocato tutte le possibili manifestazioni di alternatività e di opposizione. Sì. D'altro canto c'è stato il fatto che l'Egitto ha attraversato, un po' come tutti i paesi del Medio Oriente, una grave crisi dal punto di vista economico, che ha depauperato le classi medie, le classi medio-basse, e questo ha provocato anche una serie di lotte sociali anche molto aspre tra il 2006 e il 2008, per esempio, quindi immediatamente prima dello scoppio della rivolta. Sì. In terzo luogo, il terzo elemento è quello che riguarda l'emergere della classe dei tycoons, perché Mubarak stava preparando la strada, la successione a suo figlio Gamal, e Gamal era, diciamo così, intrallazzato con i grandi poteri economici, soprattutto finanziari dell'Egitto. E questo fatto era in realtà molto mal visto dall'esercito, perché l'esercito è sempre stato in Egitto non solo, diciamo così, il baluardo della difesa nazionale, ma è sempre stato, dai tempi di Nasser in poi, anche una potenza economica, cioè sì. L'Egitto ha sempre per molti anni controllato alcuni importanti aspetti industriali, finanziari, commerciali, agricoli dell'economia egiziana, e l'emergere di questi nuovi gatti grassi, cioè di questi tycoon legati alla figura di Gamal Mubarak, delfino lanciato alla successione del padre, aveva praticamente sollevato da una parte le ostilità dei sindacati, delle organizzazioni dei lavoratori, dei lavoratori stessi, della stampa, eccetera, e ripeto, dall'altra parte dell'esercito. E qui c'è un nodo secondo me fondamentale, cioè il fatto, la gente, gli ascoltatori probabilmente non ricordano, ma quando Mubarak ha tentato nel febbraio del 2011 di reprimere le rivolte, soprattutto la famosa rivolta di Piazza Tahrir, a un certo punto è stato stoppato, è stato bloccato dagli stessi militari, sì, i quali l'hanno in qualche modo costretto alle dimissioni, e le dimissioni di Mubarak hanno poi aperto la strada, l'evoluzione successiva della politica egiziana, con l'ascesa al potere dei Fratelli Musulmani, la vittoria di Morsi alle elezioni presidenziali, eccetera. Perché ho detto tutto questo? Ho detto tutto questo perché volevo discutere, qui chiudo, la questione della restaurazione, nel senso che la mia tesi non è una tesi che possa essere scientificamente provata, perché gli archivi non sono stati esplorati, sì, e la storia la si fa con la distanza degli anni. Certo. Però la mia tesi è che in realtà il processo innescato dalle rivolte del 2011 e terminato con la presa del potere di Al-Sisi e dei militari il 3 luglio del 2013 è stato un processo in qualche modo sempre, se non proprio pilotato, ma comunque controllato dall'alto, dall'esercito stesso. Che svolge un ruolo insomma importantissimo nella storia del paese, anche economicamente, ha fatto molto bene a ricordarlo. Uno dei ruoli importanti, fra l'altro, professor Campanile, la interrompo perché così rispondo anche ad alcuni ascoltatori che sottolineano, certo, come Al-Sisi ha sempre avuto il pugno duro contro l'integralismo islamico, ma come era anche comunque con Mubarak, no? Certe pulsioni venivano comunque placate, come era anche con Gheddafi in Libia. Erano regimi che comunque non lasciavano spazio a certe pulsioni. Lei qualche tempo fa leggeva un'intervista che era apparsa sull'Inchiesta, ma stiamo parlando forse di 2 o 3 anni fa, diceva: attenzione, perché la repressione condotta dall'esercito contro i fratelli musulmani potrebbe essere controproducente nel lungo periodo, perché si crea una sorta di vittimizzazione, no, di un movimento che poi, quello che aveva vinto regolarmente le elezioni, vede ancora questo rischio, questo pugno duro contro l'integralismo islamico potrebbe essere controproducente nel lungo periodo. Siamo quasi in chiusura, professore. Sì, una risposta in da due punti di vista breve. La prima è che sì, potrebbe essere controproducente, nella misura in cui evidentemente, come spesso accade nei riguardi di movimenti che vengono defenestrati con la violenza, questi possono entrare in clandestinità e quindi organizzarsi a loro volta come movimenti, diciamo, terroristici, se si vuol dire, o di opposizione a loro volta violenta contro la repressione che hanno subito. D'altra parte c'è la questione dell'equivoco dell'integralismo, nel senso che i fratelli musulmani sono stati a lungo espressione di una islamizzazione popolare che emergeva dal basso all'interno della società egiziana. Poi hanno commesso tutta una serie di clamorosi errori politici e di schieramento, per cui hanno perso credibilità. Però questo loro emergere dal basso e questo loro accreditarsi, che deve essere fatto risalire fin dai tempi della fondazione dei fratelli musulmani negli anni 20, come forza popolare, addirittura si è parlato dei fratelli musulmani come del primo partito di massa del mondo arabo, sì, deve essere considerata come una variabile importante di quello che è l'Islam dell'establishment, cioè l'Islam che si può dire popolare, ma che ha l'altro, di cui l'altra faccia è l'Azhar, cioè la grande università religiosa del Cairo, che non è solo un'università, ma che è una rete molto diffusa di un sistema educativo capillare, profondamente inserito all'interno della società. Tra l'altro, professore, la interrompo perché le volte che sono stato in Egitto ho potuto osservare anche, come dire, la base di solidarietà sociale, no, dei fratelli musulmani, quasi un parastato sociale che era profondamente radicato nella popolazione. Però ci torneremo. Professore, devo interromperla perché siamo davvero in chiusura. Se avrà piacere e voglia, la ospiteremo un'altra volta per proseguire questo discorso molto importante sull'Egitto, paese importantissimo. Scusate, Gianmarco Ferronato, i titoli di coda. Con i quali ringrazio ovviamente i miei ospiti, non da ultimo il professor Massimo Campanini, Antonio Taglia, Elisa Pancaldi in redazione, Gianmarco Ferronato in regia, voi per essere stati all'ascolto. L'appuntamento ore 20 stasera per la replica, ore 6 domattina per la replica, ore 16 domani, quando di nuovo Nessun Luogo Sarà Lontano. Un saluto da Giampaolo Musumeci.